il prototipo di una tuta sensorizzata munita di algoritmi e tecnologie che la rendono capace di registrare e misurare la postura del corpo umano, e questo anche durante movimenti rapidi e dinamici, e consente anche di misurare questa tuta gli sforzi muscoloscheletrici che si possono compiere, per esempio nelle attività sportive oppure lavorative. È stata sviluppata questa tuta dal laboratorio Dynamic Interaction Control dell'IIT a Genova, laboratorio coordinato da Daniele Pucci, ricercatore che recentemente si è aggiudicato il premio Meet Innovators Under 35 Europe, a cui diamo il benvenuto. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, noi ci eravamo sentiti poche settimane fa a proposito di robot volanti. Allora, qui parliamo di un'idea senz'altro meno roboante, ma probabilmente anche un po' più vicina ad essere messa a terra. Ricordo anche che questa ricerca è stata condotta nell'ambito appunto del progetto ENDI, che è un progetto finanziato dal programma Horizon 2020 dell'Unione Europea ed è appunto coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia. Allora Pucci, la prima domanda che ti voglio fare è: che cos'ha di speciale questa soluzione sviluppata da voi, nel senso che di indumenti sensorizzati per misurare di tutto e di più se ne sente parlare da tempo, ce ne sono tanti? Sì, esatto, allora di indumenti sensorizzati ce ne sono tanti. Il nostro sforzo è quello di creare un sistema indossabile che sia unico nella sua capacità di misurare sia la posizione dell'essere umano e sia gli sforzi articolari in contesti non necessariamente sensorizzati da telecamere, ma completamente indipendenti dall'ambiente nel quale uno si trova. Che cosa consente di misurare di preciso questa tuta? Quanti sensori ha? Se ce la descrivi un pochettino. Ma allora, la tuta ha 17 sensori commerciali e poi è stata integrata da un paio di scarpe sensorizzate che sono state sviluppate da noi. In particolare le scarpe hanno un paio di suole che possono essere inserite all'interno di una delle scarpe, e le suole derivano dalla pelle artificiale del robot umanoide iCub. Quindi lì c'è stato anche uno sforzo di prendere una tecnologia nata per altri scopi e modificarla e creare queste suole. Quello che si riesce a misurare sono fondamentalmente tre cose. La prima, dov'è l'essere umano, quindi ad esempio quanto il nostro ginocchio è piegato e magari qual è la nostra velocità di avanzamento quando corriamo. E la seconda, qual è lo sforzo articolare, ad esempio se noi siamo piegati, qual è lo sforzo che il ginocchio sta facendo. E la terza cosa, che è abbastanza unica, è se prendiamo un peso, certo, automaticamente il sistema ci dice quanto pesa senza avere i sensori alle mani. Ecco, questa è un'altra componente innovativa. E naturalmente poi si riesce di conseguenza anche a capire i vari sforzi ulteriori che questo peso comporta sulle articolazioni e quant'altro. Per ora avete fatto un po' di esperimenti, in quali situazioni l'avete testata? Ma allora, noi fondamentalmente l'abbiamo testata in un ambiente, in un campo di calcio, quindi volevamo capire se poi i nostri algoritmi riuscissero a ricostruire la posizione dell'essere umano in modo accurato in ambienti dinamici.